La prima cosa che leggo la voglio dedicare a Carlo, così, semplicemente, anche perché questa è una serata che insomma prende vita dopo la morte di Carlo nel 2001. Insomma, non voglio fare il baricco della situazione, però ci stanno quegli anni in cui cambia tutto. Dal 2001 è cambiata proprio la percezione della libertà, nel senso che la libertà si è in qualche modo ristretta e anche noi in qualche modo siamo coinvolti nella restrizione della libertà. E dicevo Baricco perché lui ha detto questa cosa, nel senso che ci stanno degli anni che chiama Fosbury. Fosbury era un tizio che saltava in alto. A un certo punto tutti saltavano di pancia, lui arriva, erano le Olimpiadi di Città del Messico, prende e salta all'indietro e vince. E ci sono quegli anni in cui appunto c'è qualche cosa rispetto alla quale gli anni che seguono non sono più la stessa cosa, tutti da quel momento cominciano a saltare all'indietro. L'anno in cui Fosbury salta è il 1968. Così, insomma, ci stanno degli anni strani in cui succede qualcosa che cambia tutto. Ormai me reggo su una cianca sola, diceva uno. Quella che mi manca, ma rimase attaccata alla gappiola. Quando mi accorsi d'essere prigioniero, corlaccio al piede, in mano a un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là, in giardino. E il dolore fu grande. Ma la stilla di sangue che sortita la ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno Iddio benedirà ogni goccia di sangue che è servita per scrivere la parola libertà. Affanculo. Questa però la voglio dedicare a Roberta, che è mia moglie, e così oggi è il giorno del mio compleanno. Grazie, dai! Periodo di lezioni, no? Un leone rinchiuso in una gabbia. Intervedé da un finestrino aperto er cielo e er mare a ripensò al deserto e al tempo che sdraiato sulla sabbia, liberamente, senza tante noie, passava le giornate con la moglie. E ripensò al tramonto, quando pare che il sole rosso, rosso come il fuco, scivoli giù dal cielo e a poco finisce che si smorza dentro al mare. Oh, per chi patisce di malinconia, questa è allora più peggio che ci sia. Ero libero, allora. Ero felice, barbottava scocciato. E mo' bisogna che stia rinchiuso e faccia la grugna sotto le granfie d'una domatrice che specula su tutto e che si serve puro della ferocia delle belve. Oh, se me volesse veramente bene, non mi farebbe fare tante sciocchezze a furia dei bacetti, dei carezze, dagli lisciamenti e di tant'altre scene. La solita politica. D'altronde, questo è il vecchio sistema delle donne. Il domatore è peggio. Io solamente conosco la ferocia del cristiano quando mi insegna con la frusta in mano a sfonare il cerchio e a salutare la gente. Oppla, Nerone, un altro sarto. Ale, bella maniera di trattare re. Ho detto re, purtroppo. Ma oramai ma accorgo che divento piano piano sovrano come il popolo sovrano, che viceversa non comanda mai. Guai se non faccio quel che fanno loro, guai se mi imputo, guai se non lavoro. Tra le altre cose, è scritto sul programma che un giorno ho divorato un domatore. No, non è vero affatto, è un impostore. Scusate, avrete notato che la voce è cambiata un po', nel senso che è tornata un po' la mia, e questo noi nel gergo lo chiamiamo transfert, cioè nel senso che a un certo punto voi dovreste vedere me, il leone, per cui non avete più bisogno di ascoltare la voce della bestia di una serie di cazzate. Lo possino ammazzare l'ombraccio a mamma, è una reclame che se fa sto micco, per bene più pieti e fa se ricco, e in questo non c'è sta la convenienza. Fintanto che le fiere serviranno a far guadagnare l'omini, saranno sì come le fiere, ma te beneficenza. È un'infamia, un sopruso, una vergogna, bisogna fare uno sciopero, bisogna. Una scimmia, che intese questo discorso, gli disse: ma perché? Non fai maniera di fare un complotto assieme alla pantera? La pantera, io c'ero. Alla iena, alla tigre, al lupo e all'orso, perché non cerchi di avere la stima, l'indipendenza che c'avevi prima? Tu che sei re, padrone di un deserto, con quel nome che c'hai non t'hai da mettere a fare i giochi e a fare le pirouette, come un artista di caffè e concerto, come un vecchio pagliaccio di mestiere. Che speri d'essere fatto cavaliere? No, amico, no. Qui è questione d'amor proprio. Finché ste buffonate le fo io che sono una scimmia, è naturale mio. Vedo un uomo, lo studio e lo ricopio. Lo ricopio! E per questo sono sicura di farci una bruttissima figura. E lo stesso succede al pappagallo, che appena che sente una parola che dice un uomo, gli si incastra in gola e si preme, si sforza per rifarlo, discorre come lui, ma non c'è uccello più scosciante e più stupido di quello. E siccome la scimmia dalla rabbia aveva alzato un po' di più la voce, tutte quelle altre bestie più feroci fecero capoccella dalla gabbia. Bene, brava, strillavano. Ha ragione, viva la libertà, morta al padrone, zitti, disse il leone, che capiva che quello era il momento più propizio per pigliare la parola e fare il comizio. È inutile che dite a basso o evviva, le ribellioni fatte con gli strilli si rimettono a posto con tre squilli. E infatti lo sapevamo, no? Prima pure ci davano il maggio francese, maggio, cioè un mese, è durato parecchio, no? C'è bisogno di tempo per far cambiare cose, però, con tanta pazienza. Bisogna fa sul serio. E a rivoltarsi contro questo sfruttatore prepotente, e questo lotteremo solamente con l'organizzazione della classe appena che ci saremo uniti con le bestie di tutti i partiti. I partiti. Allora io mo stavo al bar qua davanti, mi stavo a leggere l'editoriale del Corriere della Sera. I partiti attizzano la guerra fratricida tra italiani per le risorse pubbliche, impegnandosi a scovare sempre nuove tasse per sostituire quelle che pagano i propri elettori. Si illudono di usare il fisco come strumento salvifico di giustizia sociale. Giusto, questo è un modo così di intrecciare i vari input e output del quotidiano, per citare Lebowski, Big Lebowski, diciamo che poi la merda sale fino a un certo punto, quello che Teresa ti fa è nuotare il meglio possibile. Ma prima che incominci la battaglia, se fra di voi ci fosse un animale che per qualche ragione personale vuole sta sottomesso a sta canaglia, che si faccia escir fiato, parli avanti, senza che poi ci rioli come tanti. Un ciuccio che aveva l'incombenza di portare la carnaccia nel serraglio capì il latino e disse con un raglio che aveva già perduta la pazienza. Io fece. Sarò il primo a dargli addosso, lo posso non scannarlo a mare rosso. Io, dopo tutto, sono lavoratore, fatico, soffro assai, ma quel boiaccia come mi ricompensa? A carci in faccia. Come mi paga? Col tortore. Poi mi ammazza e mi scortica per via che fa il tamburo, con la pelle mia. Difatti, certe sere, quando sento i rataplan che fanno gli soldati, ripenso a tutti gli somari scorticati che sono serviti a tutto il reggimento. Sarò paziente, sì, ma non sopporto che me la suoni pure dopo morto, per cui mi associo nella ribellione. Ma prima voglio avere la sicurezza che me levate il basto e la capezza. Se qui si tratta di trovare un padrone che me la grocchia come quello vecchio, resto con questo. E buonanotte al secchio. La lupa disse: E io che ho dato il latte al primo re di Roma. E bebbia mia, sebbene o male c'è la monarchia, ma l'uomo invece quante me ne ha fatte? Mi ha chiuso in gabbia e ha messo fuori il tetto che magno come un lupo. Beh, rispetto, doveva avere un riguardo per la balia del primo re che fece Roma. E invece, ma questo non fa specie, disse l'orso. Pure quelli che fecero l'Italia, mo campeno suonando l'organetto con le ferite e le medaglie in petto. Io, disse allora il cane, Non lo nego, gli sono fedele, affezionato. E come? Gli sono amico davvero. Ma siccome mi tratta come un cane, me ne frego. Devi ammeligarci da stingrato Mario Orto, pure io. Mario Orto, me l'ho ammazzato e farai bene. Gli ha risposto il gatto. Io che sono animale indipendente, ma affeziono alla casa solamente. Ma no, al padrone che non stimo affatto. O monarchico, o prete, o socialista, l'uomo è stato e sarà sempre egoista. E io, disse la tigre, io ho il dolore che lui mi paragoni e mi confonda il cuore mio col cuore della donna che ammazza il figlio per salvare l'onore. Sono una tigre, è verissimo, ma io non assassino mica il sangue mio, no. Posso fare la rivoluzionaria perché sono la regina degli uccelli! Strillò l'aquila nera. Attenzione. Io, come quelli che stanno in alto e vivono per aria, vedo le cose sempre tale quale. Purtroppo, disse l'orso, questo è il male. In alto non si sentono i lagni, in alto non si vedono le pene. Da quell'altezza lì tutto va bene, poveri e ricchi tutti, tutti sono compagni. Bisogna scegliere per conoscere a fondo tutte le birbonate di sto mondo. Ma che diavolo volete che mi importi? Barbottava la iena clericale. Dell'uomo e del benessere sociale. Io vivo solamente sui morti. E a chi mi dice io soffro? Gli rispondo che la felicità sta all'altro mondo. Un povero, quasi finita, eh? Un povero maiale ammaestrato che spesso entrava in gabbia col leone per far convincere il pubblico coglione che il re della foresta era domato, se fece sci un rumore dalla gola, domandò scusa e prese la parola. L'idea di st'uguaglianza non può reggere. Voi direte che io vi ho le difese della moderna società borghese che mi stima, mi ingrassa e mi protegge e che con la scusante del prosciutto permette che mi fichi dappertutto. No, non è per questo. Io dico. Se domani gli ha messa l'uguaglianza, diventate tutti compagni. Sì. Ma non pensate che il cane vorrà avere tutti i cani. E il sorcio vorrà avere tutti i sorci. E io questo sentenne tutti i porci. Io benedico l'antenato mio, fischiò il serpente. Che minchia o no? L'uomo. Quando gli disse che mangiando il pomo sarebbe diventato uguale a Dio. L'uomo, sempre ambizioso e più interessato, lo prese sto pomo e ci rimase buggerato. Ma lui, l'uomo, che c'ha le scuse sempre pronte, quando il Dio per punirlo del peccato gli disse che se fosse guadagnato il pane col sudore della fronte, fece l'occhietto e disse alla compagna: Oh, se non trovi gli suda, non se magna. Apposta. Apposta c'è chi resta a bocca asciutta e chi magna per quattro. Al proletario, che suda assai, gli manca il necessario. Mentre invece il padrone che lo sfrutta senza sversare una goccia di sudore magna, fuma, si intoppa e fa il signore. È questo il vero peccato originale, strillava il coccodrillo socialista. Morte alla borghesia capitalista, evviva la Repubblica Sociale, evviva! Ma chi lo sa che avrebbe detto? Se non si fosse inteso un organetto, una cacciara, chi lo sa? Comunque, era l'avvisatore che suonava una marcia qualunque solamente per ridunar più pubblico e la gente, chiamata dal motivo, ci imboccava. Zitti! E a stasera, disse la pantera. La pantera. Zitti! E a stasera, disse la pantera. E tutti zitti. Bravi. Zitti! Zitti! Zitti! Disse la pantera. E tutti gli risposero. A stasera. A stasera! A staserata!